passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:34, 800 24 00 24, il numero verde per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. andiamo subito a sentire il TG2. Non c'è, no, studio aperto. Il summit dell'Aquila, seconda giornata di lavori, Giotto allargato ai paesi emergenti, approvata la dichiarazione sull'agenda globale che annuncia l'impegno per i paesi poveri e strategie comuni per uscire dalla crisi. Sul clima la Cina si sfila, ma loda la mediazione di Berlusconi. First Ladies in visita alle macerie del terremoto, la cronaca dei nostri inviati. Ergastolo per Romulus Mailat nel processo di appello per l'omicidio Reggiani. In primo grado un romeno era stato condannato ai 29 anni di carcere, deciso anche l'isolamento per 6 mesi. L'accusa ha chiesto il massimo della pena per l'inaudita crudeltà dei fatti. Chiesti 14 anni di reclusione per l'agente Spaccarotella, accusato di aver ucciso Gabriele Sandri. Il PM impugna in aula la pistola e mima lo sparo mortale, ma poi riconosce le attenuanti. Ha distrutto una vita, ma ha rovinato anche la sua. Dura la madre di Gabbo, non è la stessa cosa, si sfoga. Io ho perso un figlio. Sara non ce l'ha fatta. È la 23esima vittima della strage di Viareggio. Aveva 24 anni. Il suo cuore è ceduto dopo 10 giorni di agonia. Sono ancora 15 feriti ricoverati. A me piacciono eleganti, intelligenti, non dominatrici. Si può imparare a far l'amore? Sì, se io penso com'ero io, mamma mia. E com'eri? Imbranato, come tutti penso. Quanto tempo ci vuole per amare bene davvero? Amare in senso fisico? Forse una vita. Forse una vita, perché si impara sempre di più. Ho una domanda molto, molto intima, quindi se vuoi non mi rispondere, naturalmente. Ti è mai capitato di scoppiare a piangere mentre facevi l'amore? No, mai. Oh. Beh, insomma, a cosa stiamo assistendo? Perché poi i politici si lamentano quando i media si occupano delle loro faccende private. È successo in Italia recentemente, ma succede spesso. No, questi sono fatti privati. Beh, la voce non era artefatta, è quella del ministro Brunetto, uno degli uomini più in vista del governo, che si confessa come fa l'amore, piange quando è a letto con una donna, la dominazione e altre cose. Su La 7, Capitani Coraggiosi e la trasmissione, conduce Antonella Boralevi. Sentiamo ancora. Le donne ti piacciono? Assolutamente sì, sono una delle cose più belle della vita. Adesso che sei ministro ti corteggiano? Mi corteggiavano anche prima, per la verità. E tu come reagivi? Bene. Il tango è il ballo più erotico che ci sia. Cosa ti piace? La vicinanza, l'attrazione, l'incastro dei corpi, il ritmo, l'eleganza. È un atto sessuale. Ma certo. Tutto questo c'è nell'atto sessuale? Il ritmo, l'eleganza? Se si è bravi, sì. 800 24 00 24, ripeto, e poi i politici si lamentano se si parla del loro privato. Dove andiamo? A sentire un servizio mandato ieri in onda dal TG1 su quello che è successo a Roma, per introdurre il tema del G8 e soprattutto delle violenze, per il momento limitate per fortuna intorno al G8. Incidenti a Roma, hanno imbrattato persino una bambina nel passeggino introducendosi in un negozio, credo un negozio di abbigliamento di una marca. Sentiamo. Secchiate di vernice viola sulle vetrate del negozio e una scritta. È mattina quando 3 manifestanti a volto coperto entrano e riducono così il locale in un quartiere di Roma. E proprio chi assiste alla scena reagisce. Alcuni passanti se la prendono con gli imbrattatori, una colluttazione. Poi i 3 fuggono. All'interno anche una bimba in passeggino colpita dalla vernice. Preso la bambina di corsa che piangeva disperata insieme a tutta la gente che le era intorno, ci chiediamo il perché possa essere stata presa di mira proprio una persona che lavora dalla mattina alla sera. E... Chi protesta contro il G8 cambia strategia, piccole azioni dimostrative non violente, si abbassano i toni, ma c'è chi reagisce. A Venezia attivisti di Greenpeace occupano due centrali alimentate a carbone. Perché vi ho fatto sentire questo? Perché incredibilmente, secondo me, nei confronti di chi ha operato gli arresti qualche giorno fa a Torino, 21 persone più altre 8 a Roma, due giorni fa, si sono mobilitati alcuni intellettuali soliti, Gianni Vattimo, Giacomo Marramao, Dario Fo, Franca Rame, l'editrice Luisa Capelli e altri. Questo manifesto degli intellettuali contro gli arresti di Torino recita in questo modo, lo riassumo: la coscienza va risvegliata, la libertà di dissenso va difesa. Sugli arresti di giovani in occasione delle manifestazioni del G8. Vengono condannati in questa lettera gli ordini di carcerazione dei 21 partecipanti alla contestazione dell'onda durante il G8 dei rettori a Torino. Reagiamo con convinta e intesa mobilitazione politica, sociale e culturale alle lesioni che democrazia e libertà hanno subito con gli episodi repressivi di questi giorni. Non lasciamo sole e soli questi giovani. Evidentemente queste persone non hanno ben letto le motivazioni che hanno portato la procura di Torino, guidata da Giancarlo Caselli, all'arresto di queste persone, le violenze, i cassonetti, una sorta di preparazione quasi militare, si legge nell'ordinanza. Dove andiamo? Andiamo a sentire fin dove può arrivare l'innamoramento per Barack Obama, che è un mito per la sinistra italiana, non solo per la sinistra italiana, per tutti. Difficile trovare qualche critica, almeno in Europa, a quello che fa il presidente americano. Il presidente Partito Democratico della provincia dell'Aquila, Pezzo Pane, una signora molto battagliera, minuta, molto bassa, spiega in questo modo i suoi sentimenti. Siamo permessi di chiedere di fare una foto con lui per suggellare questo momento forte di grandissima importanza internazionale, e mentre facevamo la foto, essendo molto forte il dislivello di statura fra lui altissimo e io piccolina, lui, come fosse un grandissimo amico, un amico di sempre, si è avvicinato al mio volto per fare la foto insieme e poi ci siamo abbracciati, un momento davvero emozionante. Sua maglietta fina. Un patto forte, perché il presidente Obama si è rivolto a noi camminando con una postura molto carismatica, davvero sembrava un grande attore, John Wayne che camminava con quell'incedere autorevole, in maniche di camicia. Ci siamo tutti molto emozionati, era importante che il presidente venisse nel centro storico e vedesse direttamente le ferite della città. Poi lei parla inglese, che cosa vi siete detti? Poche parole, avevo pochissimi istanti, ma gli ho detto: benvenuto presidente, ho fiducia in quanto stai facendo per la pace e per i diritti umani nel mondo. Gli ha fatto un buon complimento anche? Sì, certo, gli ho detto: sei il mio mito, fai qualcosa anche per noi. L'innamoramento per Obama raggiunge con la Pezzo Pane il suo picco assoluto. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Insiste Matteo Salvini, insiste, non c'è niente da fare. Non vede la differenza che c'è tra il tifoso di calcio, il tifoso che va in curva, e il politico, il parlamentare europeo, il parlamentare italiano, il consigliere comunale a Milano. Non c'è differenza. E in collegamento diretto con una radio napoletana, una radio che è la radio ufficiale del Napoli Calcio, Radio Marte si chiama, insomma insiste, ripeto, su questa cosa qui. Sentiamolo. Caro Salvini, siamo un po' tutti indignati per quello che abbiamo visto su internet. Lei cosa ha da dirci? Ma che se sentiste quello che a San Siro ci diciamo coi veronesi e coi bergamaschi... Questa è una risposta proprio molto... Se molto mi fate una domanda, io do una risposta. Sì, prego, no, io fate le domande, vi date le risposte, fate voi quello che volete. No, un attimo. Intanto le presento anche l'artista e l'attore Gino Rivieccio, che è dall'altra parte. Buongiorno, Salvini, buongiorno. Buongiorno. Allora, ascoltiamo la risposta di Salvini. Sto, semplicemente dicendo che gli sfottò da stadio su Napoli, su Bergamo, su Genova. Il Milan ha i rapporti calcisticamente e sportivamente più frizzanti con il Verona, con la Juve, con l'Atalanta, col Napoli, e quindi i cori sono di tutti i tipi nei confronti degli altri e nei confronti dei milanisti. Io sono venuto più di una volta sia a Roma che a Napoli a seguire il Milan in trasferta e ne ho sentite, viste e lette di tutti i colori su Milano, sul nord e su tutti quanti. Ci sorrido e finita la partita, amici come prima, non vedo veramente dove sia lo scandalo. Salvini. E infatti non c'è nessuno scandalo, per carità, per Salvini è come se non fosse successo nulla, insiste, sentite. Non faccio di tutta l'erba un fascio, so che purtroppo, per fortuna, una piccola parte di Napoli esporta un'immagine non proprio edificante di Napoli in Italia e nel mondo, sicuramente una piccola parte, che spero sia sempre più. Ma questo non giustifica il fatto, ecco, lei continua a peggiorare la situazione, perché in questo momento sta dicendo, siccome c'è una piccola parte di Napoli che esporta una brutta immagine, io posso giustificare a dire che i napoletani sono colorosi e tremolosi. Questo è gravissimo, anche perché lei non... Ma vada allo stadio, ci faccia due risate, si rilassi e vada allo stadio, l'Italia a Strasburgo, si rilassi e vada a vedersi una partita ogni tanto, si rilassi, vada in curva a divertirsi. Io ho giurato che non metto più piede al Bentegodi di Verona. E mi spiace per lei, perché io sono stato 7 anni a Milano, quindi le ho viste tante. Beh, si rilassi e vada a vedersi una partita allo stadio è un'altra chicca del Salvini di questi giorni, che non molla la presa, perché evidentemente insomma è sempre presente. Si può imparare a far l'amore? Sì, se io penso com'ero io, mamma mia. E com'eri? Imbranato, come tutti penso. Quanto tempo ci vuole per amare bene davvero? Amare in senso fisico? Forse una vita. Forse una vita, perché si impara sempre di più. Ho una domanda molto, molto intima, quindi se vuoi non mi rispondere naturalmente. Ti è mai capitato di scoppiare a piangere mentre facevi l'amore? No, mai. Confessioni di Brunetta, non era una voce finta, eh? Il ministro Brunetta che si confessa sulla 7 in una trasmissione condotta da Antonella Boralevi, e poi i politici si lamentano quando ci si introduce nella loro vita privata. Gianni Vattimo, buonasera. Buonasera, ma qui non si tratta di vita privata, spero. No, assolutamente, però ho sentito, cioè, era la voce di Brunetta quella, e parlava del modo di fare l'amore, eccetera. Si è arrivati fino a questo punto, insomma. Che c'è da fare? Non so. Senta, fatti suoi, per così no, dire, sì, però, in questo caso sono diventati anche fatti degli altri, non solo fatti suoi. Per una scelta precisa, poi, cioè andare in televisione a parlare di come si fa l'amore. Questo la dice lunga su alcune cose che riguardano il privato e il pubblico. Senta, io vedo la sua firma in un manifesto al mondo della cultura che mi sembra abbastanza delirante, devo dire la verità, Vattimo, questo è il mio giudizio. No, adesso non esageriamo. Un po' delirante sì, perché qui si tratta di una cosa molto semplice. La procura di Torino ha ordinato degli arresti nei giorni scorsi che riguardano 21 persone, poi ci sono stati fatti anche a Roma. Questi arresti, io le leggo quello che una persona che credo lei apprezzi, come il procuratore Caselli, quello che ha detto qualche giorno fa. Gli scontri di Torino sono stati organizzati con strategia paramilitare. Gli scontri sono stati premeditati, preparati da tempo, a fronte di un corteo di circa 3.000 manifestanti dissenzienti che sono rimasti al di fuori di qualsiasi iniziativa che potesse avere rilevanza penale. Circa 300 persone hanno messo in atto comportamenti di violenza indiscutibile. La nostra non è stata un'indagine contro questo o quel gruppo, contro questa opinione o quell'altra opinione, è stata un'indagine contro reati commessi da soggetti singoli autori di violenza. E poi, ha aggiunto Caselli, questo è un concetto molto importante, è stata un'operazione in difesa della libertà di pensiero, perché intervenendo come siamo intervenuti contro i violenti, abbiamo inteso difendere la libertà di manifestare di quei soggetti che lo fanno con comportamenti che utilizzano legittimamente lo strumento della democrazia. Insomma, voi in questo manifesto che lei ha sottoscritto ma che non ha preparato lei, dite che in realtà c'è da difendere la libertà, la democrazia, che sarebbe stata violata. Si sentirebbe di applicare le cose che dice Caselli a quello che è successo a Roma? Perché io ho firmato questa lettera principalmente per la storia di Roma. E a Roma che è successo? Perché mi scusi, secondo lei? Perché a Roma hanno messo in carcere dei ragazzi che non avevano fatto assolutamente niente. E di questo lei è certo? Una rottura di vetrina. Niente di niente, sono stati caricati a freddo dalla polizia mentre si stavano sciogliendo e andavano verso la Sapienza. Allora, io ho tutta la stima di Caselli e in fondo nella storia di Torino Guardi che il manifesto si riferisce anche a Torino, eh. Il manifesto si riferisce soprattutto sì, a Torino. Lo so, il manifesto si riferisce anche a Torino, forse questo è un errore. Io per quello che riguarda Torino non intendo impegnarmi, primo per la fiducia che ho in Caselli. Secondo, perché devo dire che una delle ragioni per cui non mi è scandalizzato che si parlasse di Torino è che io ho partecipato a quella manifestazione. Sono arrivato fino alla fine, quando c'era lo sbarramento di polizia, e poi me ne sono andato. Tra tutte le persone che ho visto, io forse ero negli altri 2700 che non avevano né vandelli né niente. Probabilmente sì. Ecco, però quindi di Torino posso ammettere di non avere documentazione sufficiente. Su Roma invece? Su Roma i miei colleghi romani che conoscono le persone messe in galera, non fermati, messe in galera. Tra cui Giacomo Marramao? Tra cui una ragazzina che faceva delle foto. No, tra cui dico tra i suoi colleghi, intendevo Giacomo Marramao. Sì, per esempio Giacomo Marramao. Cosa le raccontano? Cosa le hanno raccontato? Mi hanno raccontato che questi, prima di tutto, che è vero quello che dice la lettera, che in questa manifestazione di Roma non c'è stato nessuna violazione, nessun reato, cioè non hanno neanche scritto sui muri, non hanno rotto vetrine, non hanno fatto. Mi scusi, io le leggo un'agenzia ANSA di 2 giorni fa, quando c'è stata la manifestazione. I Noglobal arrestati dovranno rispondere degli incendi a pneumatici e cassonetti, possesso di oggetti atti ad offendere, oltre che del reato di blocco stradale. Nel corso degli arresti la polizia ha sequestrato casse con bottiglie di vetro vuote, numerosi sanpietrini, un estintore, un respingente in plexiglass, un palo di ferro. Ho capito, non è che uno va a una manifestazione col un palo di ferro, un coltello a serramanico, con un estintore, con i sanpietrini, così tanto per proteggersi. Sicuramente al di là delle responsabilità personali, poi naturalmente se uno non c'entra niente, come può succedere, naturalmente deve essere scarcerato immediatamente. Però il problema vero è, se lei va a una manifestazione deve chiedere i documenti a tutti gli altri che partecipano. Se tiriamo all'estremo questo ragionamento, nessuno manifesterà più, perché un gruppo di violenti ci può sempre essere. Quindi io non difendo i violenti, difendo la libertà di manifestare. Ma la libertà di manifestare c'è sempre. Un attimo. Come la difende? Ma la libertà di manifestare c'è, perché le manifestazioni ci sono state, non è che non c'è la libertà di manifestare. Ma guardi l'episodio dell'altro ieri a Roma, questa storia che lei leggeva nella stampa. Naturalmente poi dove crede che l'ANSA prenda le notizie? Dalla polizia, mica dai manifestanti. E ovviamente la polizia la vede dal suo punto di vista. Oltretutto io non posso avercela con la polizia, perché mio padre faceva il poliziotto. No, tra l'altro lei è entrato in un partito, comunque è stato eletto in un partito adesso al Parlamento Europeo in cui c'è... Poliziesco, assolutamente poliziofilo, quindi non niente di tutto questo. Però la libertà di manifestare, voglio vedere come si difende se a Roma... questi studenti vengono sbattuti in galera senza aver fatto nulla di tutto quello che c'è scritto. Ma lei come fa a essere sicuro che non hanno fatto nulla? Mi scusi, lei come fa a essere sicuro che non hanno fatto nulla? Perché i miei amici di Roma me l'hanno detto. Mi fido più degli amici di Roma che dell'ANSA, se Dio vuole. Ma insomma, su questo io avrei... Lei si fida più dei suoi amici di Roma che della polizia, per esempio? Ma certamente, perché... Ma scusate, ma... Beh, lo dica Di Pietro, però, lo dica Di Pietro. Voi credete che viviamo in una democrazia normale? Noi viviamo in un regime. Questo è il punto. Allora, qualunque cosa che tocchi la libertà di manifestare, per esempio, che convinca la gente a non andare alle manifestazioni perché ci possono sempre essere dei violenti, questo mi sembra una violazione della libertà. Ma qui, scusi, questo è il ragionamento che fa lei, ma se in una manifestazione qualcuno porta dietro quello che abbiamo sentito, adesso al di là del fatto che queste 8 persone c'entrino o no, qualcuno c'entrerà, altri no. Ma siamo così sicuri che sia... Che siano così discriminanti. Non si ricorda niente del G8 di Genova. Sì, ma adesso ancora col G8 di Genova, stiamo parlando di un'altra cosa che riguarda le manifestazioni di Roma. Il G8 che presiedeva Berlusconi e ha dovuto dimostrare che c'erano i violenti, eccetera, eccetera. Ma no, non mi pare, mi sembrano episodi molto, molto minori. Diciamo, presso di noi democratici, il sospetto nei confronti del modo di gestire l'ordine pubblico da parte del governo Berlusconi è legittimo. E quindi noi abbiamo firmato per questa ragione. Certo, non voglio difendere i violenti, oltretutto i violenti picchiano anche me. L'impressione è che con questo manifesto, in cui, che ha come titolo La coscienza civile si risveglia, la libertà di dissenso va difesa e si protesta contro gli arresti sia di Torino che di Roma, voi mettete in dubbio il fatto che si possa manifestare, che ci siano episodi repressivi, non lasciamo soli questi giovani, la coscienza civile si risvegli. Ma sono manifestazioni in cui ci sono gli episodi repressivi durissimi. Quello di Roma lo è stato di sicuro. Io di questo non ho dubbi. Guardi, a Roma c'è stato un episodio che prima abbiamo raccontato, in cui delle persone, per esempio, non so se sono gli arrestati o meno, si sono introdotti dentro un negozio di abbigliamento di Benetton, che non c'entrava assolutamente nulla, hanno imbrattato tutto con della vernice, hanno, tra l'altro, hanno imbrattato pure una ragazzina sul passeggino. Tra gli episodi c'è anche questo, le pare normale? Ma ho a lei? Preso quelli, lì sono quelli che spero, hanno arrestato. Spero che abbiano preso anche quelli, non credo. Spero perché... anch'io, però la fotografa che hanno arrestato indiscriminatamente buttata in carcere... Non faceva così. Male, quando si arrestano delle persone che non c'entrano, molto male, ma questo non significa, non c'entra niente con la libertà di dissenso, ha capito, secondo me? No, la libertà di dissenso va difesa non criminalizzando tutti quelli che vanno alla manifestazione. Ma no, ma qui ci sono 8 arrestati, mica 500 arrestati in massa. Come fa ad essere sicuro che non ci sono dei violenti se va a un corteo? Scusi, però, attimo, hanno arrestato 8 persone, non hanno arrestato 8 persone, non 500, non 1000, hanno arrestato 8 persone. Io spero che questa... Qualcuno, almeno due che notizie personali che so di loro che non c'entravano, che non sono affatto violenti. E tutto questo, anche politicamente, d'accordo, e tutto questo viene preso per questo. Benissimo, e tutto questo, anche se mettiamo che le cose siano andate in questo modo, che due non c'entrano nulla, tutto questo la porta a firmare un manifesto sulla libertà di dissenso che è minacciata? Ma figuriamoci un po', ma sicuramente sì, perché, ripeto, ho i massimi sospetti nei confronti del governo Berlusconi e della sua gestione dell'ordine pubblico. E dell'ordine privato, non parliamo dell'ordine privato del governo Berlusconi, per favore. Vabbè, se vuole. Professore, la ringrazio, buona serata. Grazie. Buonasera. 18:57, giornale radio delle 19, poi attimo, non c'è tempo, chissà se Di Pietro è d'accordo con lui, che è sempre grande difensore della polizia, Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, e Vattimo è stato eletto al Parlamento Europeo nell'Italia dei Valori. TG3, titoli. Al G8 accordo sul clima, la temperatura del pianeta non deve superare i 2 gradi sopra i livelli preindustriali, ma la Cina non ci sta. Il vertice allargato ai paesi emergenti approva le nuove regole per la finanza e la ripresa economica. Le proteste degli sfollati, occupato un edificio, al grido le case agli aquilani, domani il corteo anti G8. Sì, definitivo la legge sullo sviluppo, il ritorno al nucleare, class action e norme più dure, anticontraffazione. Delitto Reggiani, ergastolo per Mailat in appello, era stato condannato in primo grado a 29 anni. George Clooney al G8 incontrerà gli sfollati e cammina tra le macerie, ho visto molti terremoti ma mai tanti danni, farò un film sull'Aquila. Si può imparare a fare l'amore? Sì, se io penso com'ero io, mamma mia. E com'eri? Imbranato, come tutti penso. Quanto tempo ci vuole per amare bene davvero? Amare in senso fisico? Forse una vita. Forse una vita, perché si impara sempre di più. Ho una domanda molto, molto intima, quindi se vuoi non mi rispondere naturalmente. Ti è mai capitato di scoppiare a piangere mentre facevi l'amore? No, mai. Renato Brunetta, l'avete sentito, era lui, che parla di amore, di sesso, di come sta con una donna alla 7, il privato e il pubblico. Qualche volta i politici si sottopongono pure a queste cose, di loro volontà, di loro sponte. Andiamo a sentire ancora Brunetta. Le donne ti piacciono? Assolutamente sì. Sono una delle cose più belle della vita. Adesso che sei ministro, ti corteggiano? Mi corteggiavano anche prima, per la verità. E tu come reagivi? Bene. Il tango è il ballo più erotico che ci sia. Cosa ti piace? La vicinanza, l'attrazione, l'incastro dei corpi, il ritmo, l'eleganza. È un atto sessuale. Ma certo. Tutto questo c'è nell'atto sessuale? Il ritmo, l'eleganza? Se si è bravi, sì. Ancora insiste Brunetta, è tutta così questa trasmissione che ha come titolo, credo, Capitani Coraggiosi, eccolo qui, andiamo. Ma tu ti piaci? No. Ma per niente? Mi accetto. Ma perché? Boh, perché adesso per esempio sono un po' sovrappeso. Però li porti molto bene i 59. Sì, ho lavorato tanto, lavorare fa bene. Le donne ti piacciono? Assolutamente sì. Sono una delle cose più belle della vita. Adesso che sei ministro, ti corteggiano? Mi corteggiavano anche prima, per la verità. E tu come reagivi? Bene. Ma a me piacciono eleganti, intelligenti, non dominatrici, concorrenti anche, questo sì. Abbiamo assistito anche a questo. 800 24 00 24. Alcuni intellettuali parlano della difesa della libertà di dissenso contro gli arresti di Torino e di Roma, manifestazioni di estreme minoranze, anche se sono poi alla fine migliaia di persone, contro il G8. Nei giorni scorsi, anzi due giorni fa, il TG1 manda in onda questo servizio, ieri in realtà. Protagonisti alcuni giovani. Sentite cosa hanno fatto a Roma. Secchiate di vernice viola sulle vetrate del negozio e una scritta. È mattina quando tre manifestanti a volto coperto entrano e riducono così il locale in un quartiere di Roma. E proprio chi assiste alla scena reagisce. Alcuni passanti se la prendono con gli imbrattatori. Una colluttazione. Poi i tre fuggono. All'interno anche una bimba in passeggino colpita dalla vernice. Preso la bambina di corsa che piangeva disperata insieme a tutta la gente che le era intorno, ci chiediamo il perché possa essere stata presa di mira proprio una persona che lavora dalla mattina alla sera. Chi protesta contro il G8 cambia strategia, piccole azioni dimostrative non violente, si abbassano i toni, ma c'è chi reagisce. A Venezia attivisti di Greenpeace occupano due centrali alimentate a carbone, si calano da una gru in un'azione spettacolare. Insomma, l'atto d'amore, tornando ad altre cose, l'atto d'amore della presidente della provincia di L'Aquila, Pezzo Pane, nei confronti di Barack Obama, è stato un inno all'obamismo italiano, al fenomeno Obama che impazza in Italia. Sentite, rapita dal presidente americano, non è la sola, per carità. Ci siamo permessi di chiedere di fare una foto con lui per suggellare questo momento forte di grandissima importanza internazionale, e mentre facevamo la foto, essendo molto forte il dislivello di statura fra lui altissimo e io piccolina, lui, come fosse un grandissimo amico, un amico di sempre, si è avvicinato al mio volto per fare la foto insieme e poi ci siamo abbracciati. Un momento davvero emozionante. Forte perché il presidente Obama si è rivolto a noi camminando con una postura molto carismatica, davvero sembrava un grande attore, John Wayne che camminava con quell'incedere autorevole, in maniche di camicia. Ci siamo tutti molto emozionati, era importante che il presidente venisse nel centro storico e vedesse direttamente le ferite della città. Lei parla inglese, che cosa vi siete detti? Poche parole, avevo pochissimi istanti, ma gli ho detto: benvenuto presidente, ho fiducia in quanto stai facendo per la pace e per i diritti umani nel mondo. Gli ha fatto un complimento anche? Sì, certo, gli ho detto: sei il mio mito, fai qualcosa anche per noi. John Wayne è eccezionale, sembrava John Wayne. 800 24 00 24, andiamo a sentire Don Livio Fanzaga, il direttore di Radio Maria. È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei. Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. Questa è la sigletta. Fanzaga oggi se la prende con chi? Con Carla Bruni. La visita in Vaticano delle First Ladies mancava, però ce n'erano sette, mancava l'ottava, mancava appunto Carla Bruni, che invece non è andata a Roma perché lei sia romana, è andata dal Papa, si vede che l'ha visto altre volte, ha preferito presentarsi direttamente all'Aquila con l'attore Costner. Ebbene, cari amici, allora siamo arrivati al nostro caffeino mattutino. Dunque, la signora Sarkozy si è presentata al G8 con una borsetta da 30.000 euro. Benché vuota, la borsetta la teneva stretta stretta. E cavolo, lo so bene. Capito? Una borsetta da 30.000 euro. fosse pure vuota, la borsetta la teneva stretta stretta. Ci ha trattato un po' male, padre Livio Fanzaga. Noi lo consideriamo un mito assoluto. Lui ad un suo ascoltatore ha scritto: Radio 24, a parte di avere i soldi della Confindustria e i giornalisti che difendono gli interessi dei loro padroni, che cosa ha d'altro? Ci tratta male, ma per noi è un mito, Lo prendiamo un po' in giro perché... ma fa delle cose eccezionali, la rassegna stampa, il caffeino, là come si chiama, mattutino, sono cose di grandissima comicità e dunque delle cose ben fatte, secondo me. Dove andiamo? A Salvini, che non la smette, insiste, continua a pensare che fare il deputato e il tifoso di calcio, tifoso da curva, il tifoso che urla, il tifoso che insomma non ha freni, si possa fare, le due figure possano convivere. Questa mattina una radio napoletana, Radio Marte. Caro Salvini, siamo un po' tutti indignati per quello che abbiamo visto su internet. Lei cosa ha da dirci? Ma che se sentiste quello che a San Siro ci diciamo coi veronesi e coi bergamaschi... questa è una risposta proprio molto... molto... Mi fate una domanda e io do una risposta. Sì, prego, no, io fate le domande, vi date le risposte e fate voi quello che volete. No, un attimo. Intanto le presento anche l'artista e l'attore Gino Rivieccio, che è dall'altra parte. Buongiorno, Salvini, buongiorno. Buongiorno. Allora, ascoltiamo la risposta di Salvini. No, semplicemente dicendo che gli sfottò da stadio su Napoli, su Bergamo, su Genova, il Milan ha i rapporti calcisticamente e sportivamente più frizzanti con il Verona, con la Juve, con l'Atalanta, col Napoli, e quindi i cori sono di tutti i tipi nei confronti degli altri e nei confronti dei milanisti. Io sono venuto più di una volta sia a Roma che a Napoli a seguire il Milan in trasferta e ne ho sentite, viste e lette di tutti i colori su Milano, sul nord e su tutti quanti. Ci sorrido e finita la partita, amici come prima, non vedo veramente dove sia lo scandalo. Salvini, e dov'è lo scandalo, per carità? Ancora Salvini. Non faccio di tutta l'erba un fascio, so che purtroppo, per fortuna, una piccola parte di Napoli esporta un'immagine non proprio edificante di Napoli in Italia e nel mondo, sicuramente una piccola parte, spero sia sempre più. Ma questo non giustifica il fatto, lei continua a peggiorare la situazione, perché in questo momento sta dicendo, siccome c'è una piccola parte di Napoli che esporta una brutta immagine, io posso giustificare a dire che i napoletani sono colorosi e tremolati, questo è gravissimo, anche perché lei non... Ma vada allo stadio e ci faccia due risate, si rilassi e vada allo stadio, a Strasburgo, si rilassi e vada a vedersi una partita ogni tanto, si rilassi, vada in curva a divertirsi. Io ho giurato che non metto più piede al Bentegodi di Verona. E mi dispiace per lei, perché io sono stato 7 anni a Milano, quindi le ho viste tante. E insiste ancora, continua questo scontro tra titani, tra Gino Rivieccio e Salvini su Radio Marte, con la conduzione di Massimo D'Alessandro, e sentiamo ancora. Lo sai che dell'anno prossimo, secondo il regolamento della FIGC, della Lega, per questi cori che lei ha intonato, anche secondo lei simpaticamente, si fermeranno le partite perché, secondo il regolamento, sono razzisti? E vorrà dire che ci daremo dei birichini a vicenda, così almeno ci divertiremo tutti quanti. Io invito tutti, andate allo stadio serenamente, tranquillamente, non violentemente, e divertitevi, Madonna Signora. Divertitevi, perché il problema è che lui si è divertito con una birra in mano, secondo Salvini naturalmente. La maglietta del Napoli, poi, sentite. Ci promette una cosa? Non lo so, gliela chiediamo, poi ce l'ha scritto un tifoso, un napoletano. Dica. Alla prima seduta al Parlamento Europeo indosserà la maglia del Napoli? No, guardi, quella del Napoli potrei ancora pensarci, quella dell'Inter mai l'ho messa, mai la metterò nella vita. Faccia questa cosa, cioè, promette ai napoletani di indossare per una volta la maglia del Napoli all'Europa. Ah, beh, ma se questo serve a svelenire il clima e a far tranquillizzare qualcuno, me la metto anche stanotte, la maglia, pure il cappellino e i pantaloncini del Napoli, non c'è problema. E allora però si faccia fare il video su YouTube con la maglia del Napoli e il cappellino, va bene? Devo trovare la stessa persona che l'ha fatta a Pontino, mi faccio fare il video con la maglia del Napoli, però canto mia bella Madunina questo. Va bene, 19:29, 800 24 00 24. Intanto Berlusconi ha iniziato da qualche minuto una conferenza stampa in cui ci sono anche delle domande dei giornalisti all'Aquila, secondo giorno del G8. Si può imparare a fare l'amore? Sì, se penso com'ero io, mamma mia. E com'eri? Imbranato, come tutti penso. Quanto tempo ci vuole per amare bene davvero? Amare in senso fisico? Forse una vita, perché si impara sempre di più. Ho una domanda molto, molto intima, quindi se vuoi non mi rispondere naturalmente. Ti è mai capitato di scoppiare a piangere mentre facevi l'amore? No. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta e andiamo a sentire i primi ascoltatori. Marco da Torino, buonasera. Ah, buonasera Cruciani. Dunque, tre cosette veloci. Dunque, su Salvini devo dirle che siamo tutti un po' ultras, anche Quattrino, insomma. Non sono elettore della Lega, ma comunque l'obiettivo l'ha raggiunto questo signore. No, questo non c'è dubbio, ma che significa siamo tutti un po' ultras? Cioè, si è calato nei panni di... No, che è un linguaggio facile, penetra bene e se ne parla, e lei anche fa la sua parte di pubblicità in questo senso, involontaria. Questo è il mio pensiero, per l'amore del cielo. Sì. Però secondo lei il ruolo del politico si deve distinguere da quello del tifoso ultra oppure no? Ma pare logico. Quello è evidente, però diciamo che siamo anche in estate, non so come gliela posso mettere. Comunque diciamo che l'obiettivo l'ha raggiunto. Non è l'unico politico ultra, poi Salvini, si potrebbe anche dire. Gli altri vanno dove sono andati? A Brunico a seguire la Roma, no? Quegli altri, come si chiama, quello dei Verdi. Sì, magari non si fanno sorprendere Paolo Cento, sì, grande tifoso della Roma. E non si fanno sorprendere magari a cantare i cori contro, non so, i laziali in questo caso, contro non so chi. Non li hanno beccati. Anche se Paolo Cento qualche manifestazione, qualche slogan. Senta, poi se mi permette, perché siccome io la seguo già dall'inizio, poi adesso ho visto che è andata va anche in televisione, farei attenzione a non seguire un po' troppo lo stile di Signorini, insomma, con questi gossip, adesso Brunetta, con Getem, questo parere mio personale, mi piaceva di più quando... Ma qui non c'è gossip, perché non è che sto rivelando qualche gossip, è qualcosa di insinuare questo stile, questo qua è il mio parere personale, non me ne voglia, tanto continuerò a seguirla, non si preoccupi. Marco... Qui il problema è un altro, non è il gossip su Brunetta. Brunetta è andato a farsi intervistare in una trasmissione sulla 7 in cui si parlava sostanzialmente di sesso e del modo in cui lui fa l'amore. Certo, poi non si può mai lamentare. Io ho capito benissimo il tema. C'è un ragionamento che si può fare sopra, insomma, non è, certo. Non è quando ci si sottomette o ci si sottopone a domande di questo tipo, si varca un confine, diciamo. Certo. No? Lei è molto bravo, i temi li c'entra, poi non sono io che glielo devo dire, mi scusi. Anzi, Terza veloce cosa, sulla signora estasiata da Obama, è normale, le donne, tante donne sono così, soprattutto con i politici, cosa dobbiamo dire di quelle sul cavaliere, insomma, con tanto di bandiera, questa qua è ancora abbastanza, insomma, non sembra che parla un po' della Madonna insomma... No, comunque, Marco, per carità, ognuno ha i suoi miti, poi, no? E certamente ci sono molte persone intorno al cavaliere che lo omaggiano anche in maniera ridicola. Le dico l'ultima cosa, ma questa veramente, non cerchi di imitare Signorini, quello lo fa... Guarda, io non voglio imitare nessuno, e tra l'altro... Però alla fine fa la figura di quello... Signorini è una persona che stimo, per cui non è che... Anche io lo stimo, lo conosco pure, però voglio dire, non capisce? Così, glielo dico proprio con franchezza, con sincerità, la prenda come vuole. Grazie, buonasera. Sandro da Roma. Buonasera Cruciani. Dica. Tocco velocemente, complimenti per Paolo Antonio e Covalta, è un recupero meraviglioso e le musiche di oggi sono veramente incredibili. Il merito non è mio, su Covatta, devo dire, il merito è di un ascoltatore. E le musiche di oggi di chi è il merito? No, le musiche di oggi è il merito nostro. Ok, poi le facci di ieri, facci il 90% delle volte io non sono d'accordo, pur ascoltandolo con estremo rispetto, però ieri ha messo veramente la pietra tombale sulla vicenda Salvini. Sì, secondo me è stato straordinario. Infatti ormai su Salvini non c'è più nulla da dire. Poi oggi abbiamo scovato questa trasmissione su una radio napoletana, Radio Marte, in cui Salvini continua a insistere su questa storia del tifoso, che in fondo non c'è niente di male, allora l'abbiamo riproposto. Ma questi non sanno fare un passo indietro, non sanno chiedere scusa, non sanno dire, ma non ne faccio proprio una questione di parte. L'avevo pensato per esempio 3-4 anni fa, con i casini che succedevano anche a sinistra, insomma le persone non sono capaci di dire mi sono sbagliato, scusate, faccio un passo indietro, sparisco per un po', insomma. Comunque, è vero, ieri qualcuno ha detto, anzi Facci l'ho fatto, a un certo punto uno deve stare zitto, invece no, si insiste, si torna sopra, eccetera. E va bene, io volevo chiederle invece una cosa, ma lei dica la verità, anche perché poi quello che pensa lo dice sempre, non so se è la verità, ma quello che pensa lo dice. Ma chi le fa più effetto? Brunetta o l'ironia involontaria della Boralevi, insomma, perché quella è la cosa secondo me più tremenda, altro che Dose. Cioè... la conduttrice fa il suo mestiere un po', Ma questa è voce, questa voce caricata, sì, però Sandro fa il suo mestiere, risentiamola un attimo. Ma è come Obama, allora, che vende, insomma, vendiamo e basta. Vabbè, lei fa il suo mestiere, è rimasto solo da vendere. Ma insomma, lei a chi si riferisce? A Brunetta, però, o alla conduttrice? La conduttrice fa il suo mestiere, fa le domande, lo fa con il suo stile, secondo lo stile anche della trasmissione. Non è che fosse un agguato a Brunetta, Brunetta sapeva benissimo. No, ma una trasmissione che si chiama Capitani Coraggiosi, ma scherziamo, insomma. Vabbè, adesso è offensivo. Non mi metta in difficoltà, perché sa che faccio una trasmissione sulla 7 e non è che voglio criticare una trasmissione, non mi importa, non l'ho vista nemmeno tutta, non so com'è costruita, ho visto solamente appunto questi pezzi in cui Brunetta parla di sesso, del modo in cui fa l'amore, non è questo il punto, non, va benissimo fare una ma tra i due è questo quello che volevo dire, io sono d'accordo. Ma la conduttrice che c'entra, è Brunetta che si sottopone a queste domande, secondo me, che non dico che cade nel ridicolo, perché non c'è niente di ridicolo, è che poi, ripeto, quando si superano certi confini non ci si può lamentare che si parla del sesso dei politici, no? Risentiamo questo, un attimo. Questo era assolutamente... Risentiamo un attimo. Ma tu ti piaci? No. Ma per niente? Mi accetto. Ma perché? Perché adesso per esempio sono un po' sovrappeso. Però li porti molto bene i 59. Sì, ho lavorato tanto, lavorare fa bene. Le donne ti piacciono? Assolutamente sì. Sono una delle cose più belle della vita. Adesso che sei ministro ti corteggiano? Mi corteggiavano anche prima, per la verità. E tu come reagivi? Bene. Ma a me piacciono eleganti, intelligenti, non dominatrici, concorrenti anche, questo sì. Ecco, risentendo, Sandro, sa cosa mi ha colpito? Il tu. Mi ha colpito il tu, però, una coincidenza però mi ha colpito il tu perché non perché mi scandalizzi, ma no, certo. Penso che sia addirittura una cosa voluta per creare quell'intimità in una trasmissione, certo, tra il conduttore bravo. Lei è brava. Il sito della Boralevi? No, francamente. Ci faccia un giro. Che succede? Ma no, niente, perché così si rende conto un po' qual è il tono di questo modo di fare, no? Però voglio dire, funziona? Non lo so se funziona. No, devo esatto, dire che sì, non so. Fa venire da vomitare. Non esageriamo. Comunque, Sandro, volevo chiederle questo, ecco, secondo me lei sbaglia in questo. Che significa venire da vomitare? A molte persone magari non fa venire per niente da vomitare. Cioè, sì, infatti, le cose vanno giudicate, secondo me le cose un po' dall'esterno vanno giudicate su un solo parametro. È una cosa che funziona, che ti fa ascoltare, che ti fa, come dire, che ti inchioda oppure no? In questo caso sì, perché noi l'abbiamo ritrasmessa, lei ci ha fatto una considerazione sopra. Si è innescato un meccanismo, come dire, di attrazione nei confronti di questa trasmissione, no? Questo è importante, Sandro, sono cose da considerare. Lei lo chiama effetto di attrazione. A un certo punto, superato il momento in cui si fanno considerazioni ironiche, come lei ha cominciato a fare, e poi ha naturalmente messo il dito nella piaga, e cioè ha detto... Poi non ci venite a raccontare che non dobbiamo farvi gli affari vostri. Questa è un'altra considerazione così, che però prescinde dalla trasmissione, su come è fatta. Però dopo un po' diventa veramente repellente, questo le volevo dire. Ma non lo so, a me non mi repelle quasi nulla. Posso chiederle un'ultima cosa? Prego. Stasera faccio io le domande. Dica pure, Sandro. Senta, lei è un osservatore veramente efficace. Io noto che tutti i miei colleghi ascoltatori spesso non sono d'accordo con lei, perché lei riesce sempre a produrre un effetto, e non lo fa mai in modo sterile, no? E fra l'altro in una fase estremamente positiva, secondo me. Non mi faccia troppi complimenti, sennò chiudo la telefonata. Quello che volevo dirle invece è questo: la sua cattiveria, chiamiamola così, la sua grinta, il suo modo di condurre, cosa pensa di Obama? Insomma, ma è vero che l'essere venditori è una parte fondamentale di ogni politico, ma ormai sembra quasi l'ultima cosa che gli è rimasta. Obama è il massimo da questo punto di vista. Guardi, cioè, io no, sono non sono venditori adesso. No, assolutamente no. Ecco, quello volevo chiedere. ma assolutamente no, c'è una parte di politica che è fatta di vendita del prodotto e non c'è dubbio che sia così e non bisogna nemmeno scandalizzarsi. E io ho simpatia per Obama, attenzione, però non ormai mi sembra soltanto vendita. No, io non credo che sia così. Stefano Pistolini, che conduce una trasmissione sull'America ogni giorno su questa radio, le saprebbe rispondere molto meglio di me. E io credo che le discussioni, per esempio, sulla politica di Obama che si fanno in Europa siano molto diverse dalle discussioni che si fanno negli Stati Uniti, dove c'è un po' più di attenzione verso le cose concrete, come è naturale che sia. La ringrazio. Qualche minuto con Giancarlo Caselli, che è il procuratore capo della Repubblica di Torino. Buonasera. Buonasera a voi. Caselli, vorrei chiederle qualcosa, semplicemente una spiegazione con le motivazioni anche, insomma, quello che può dirci sugli arresti di qualche giorno fa a Torino, che hanno scandalizzato qualche intellettuale, e non solo, naturalmente, sto parlando degli intellettuali perché hanno fatto una lettera, eccetera. Mi dica. Ma gli intellettuali... Alcuni intellettuali. Il diritto di fare tutte le lettere che vogliono. Mi domanderei soltanto... si hanno visto alcune almeno delle immagini che erano per esempio su Repubblica Online, ancora oggi io credo si possano trovare su YouTube, ma lasciamo perdere le immagini che servono per documentarsi, vediamo come si sono svolti i fatti naturalmente nella ricostruzione dell'accusa della Procura di Torino che io dirigo, ricostruzione che ha trovato un primo avallo da parte del giudicante in persona del GIP. C'è stato un corteo di 3.000 persone che si è svolto pacificamente, in maniera vivace, manifestando dissenso acceso, ma senza violazione di regole, sì. E quindi senza che nulla comportasse un qualche intervento di rilievo penale. Alla fine del corteo, su 3.000 persone, una esigua minoranza, 300 circa, ha operato una mutazione genetica del corteo. Mentre i 3.000 si allontanavano, i 300, leggiamo quello che c'è scritto nell'ordinanza del GIP. Sì. Non è revocabile in dubbio che gli scontri, cioè, pongono in essere tutta un'organizzazione, vedremo come, si conclude con scontri violenti con le forze dell'ordine, un attacco violento contro le forze dell'ordine che sono ferme a presidio del Palazzo del Valentino. Dice il GIP, non è evocabile in dubbio che gli scontri violenti con le forze dell'ordine, tesi a forzare lo sbarramento a protezione della sede del summit universitario e quindi a interferire col convegno che si stava svolgendo presso il Castello del Valentino, fossero stati preventivati, accuratamente organizzati nei minimi particolari dal gruppo di facinorosi che li ponevano in essere, ciò risulta evidente alla luce del fatto che gli scontri con le forze dell'ordine, lungi dall'essere il frutto di una determinazione estemporanea dei manifestanti, erano stati programmati da tempo, predisponendo e occultando gli oggetti atti ad offendere, i caschi utilizzati per il travisamento, all'interno di un bidone giallo trasportato su un furgone che apriva il corteo, procurando diversi estintori antincendio allo scopo di creare una cortina di fumo e impedire la visuale agli operanti delle forze dell'ordine, nonché bastoni, mazze, cubetti di porfido, piccozze in ferro, atti ad attaccare con violenza lo schieramento delle forze di polizia e aprirsi un varco. Senta, procuratore Caselli, ma ciò si aggiunga che dopo essersi travisati armati, sì, i manifestanti si disponevano su diverse file in assetto sostanzialmente bellico e si muovevano secondo una strategia diversificata per le ali e per il fronte della formazione, a dimostrazione del fatto che l'attacco era stato preordinato e via seguitando. Ora, io sono assolutamente convinto, l'ho detto e lo ripeto, che questa iniziativa investigativo-giudiziaria non è contro questo o quel movimento, questo o quel gruppo, ma contro alcune persone, l'orientamento politico-culturale, sì, è contro singoli specifici soggetti che hanno commesso violenze, non solo intervenendo nel rispetto delle regole sul piano investigativo-giudiziario contro gli autori di violenze in coda ad un corteo ordinato, si difende la democrazia, la libertà di manifestazione del pensiero. No, ma infatti il principio, uno dei concetti fondamentali è questo, perché siccome in questo manifesto di alcuni intellettuali, tra cui Gianni Vatti, ma io faccio riferimento a questo manifesto in cui si parla di libertà di dissenso che va difesa. Invece questo intervento, diciamo, della magistratura con le indagini eccetera e in parte anche gli arresti difende, va invece a protezione difende la libertà di dissentire purché senza commettere violenze. Io sto scoprendo davanti a me un piccolo dossier con le fotografie. Niente, le fotografie parlano. Per cortesia, chi ha voglia e tempo, vada a cercarsele, le può ancora trovare. Ci sono file, come se fossero nel cortile di una caserma, che si dispongono sul terreno, e poi un mascheramento. E poi ecco qua, sfogliando, lancio di oggetti, non sono mica gianduiotti, sono cubetti di porfido, ce n'è uno qua, ecco una fotografia che peserà un paio di chili. Poi c'è un signore che sta scaricando tutto il contenuto di un estintore contro le forze dell'ordine. Questo è il dissenso, può darsi. È un concetto diverso di dissenso. Ecco, anch'io ho un concetto diverso di dissenso. Le chiedo un'altra cosa. Siccome qualcuno parla di arresti preventivi come se fosse uno scandalo, in realtà la questione della reiterazione del reato è una questione importante che giustifica in qualche caso gli arresti, no? Non c'è niente di... La reiterazione del reato fa parte del nostro codice di procedura penale, del nostro ordinamento, però qui i tempi sono dettati dai fatti. Noi riceviamo una notazione della polizia, la sviluppiamo, formuliamo le nostre richieste al GIP, il quale le accoglie. E questo discorso della giustizia ad orologeria l'ho sempre sentito su altri versanti. Se adesso me lo si ripete su questo versante, per favore, ecco, cerchiamo di cambiare cliché, per favore, ecco. La ringrazio, buona serata. Grazie a voi, buonasera. 19:51 e 41 800 24 00 24. Vedete, ogni tanto come i ruoli si ribaltano, no? Ci sono una serie di personaggi intellettuali, cosiddetti intellettuali di sinistra, ripeto, tra questi Dario Fo, Franca Rame, Gianni Vattimo, che se la prendono con i magistrati, magistrati come Caselli, per esempio, che fanno delle indagini, scoprono, forse vedremo, naturalmente, dei colpevoli di alcuni singoli reati, e loro parlano di libertà di dissenso che va difesa. Walter da Bergamo, buonasera. Buonasera. Dica. Scusi se disturbo. Niente, io volevo un suo parere e sentire il parere dei radioascoltatori su quello che ha fatto Di Pietro. Di Pietro ha comprato una pagina dell'Era Tribune, dove ha lanciato un appello, adesso vado a memoria, non mi ricordo le parole esatte, però dice l'Italia a rischio democrazia e chiede agli stati stranieri di aiutare l'Italia a non cadere sotto la dittatura. Penso che siate al corrente, no? Sì, guardi, sono al corrente, però non mi occupo di queste cose, francamente, al limite della, non dico del ridicolo, ma al limite della... No, non so trovare un'altra parola. La pagina ha come titolo "In Italia la democrazia a rischio", finisce in questo modo: l'appello, faccio appello alla comunità internazionale affinché diffonda queste informazioni che riguardano la questione del lodo Alfano, della Corte Costituzionale, del processo Mills, eccetera, affinché queste informazioni eserciti pressioni per ripristinare i principi di libertà democratica che secondo Di Pietro non ci sarebbero in Italia, e di indipendenza della Corte Costituzionale per evitare che l'Italia si trasformi da democrazia a dittatura di fatto. Questo Di Pietro è una pagina sulla Tribune, ognuno può fare quello che vuole, comprare tutte le pagine che vuole, ma insomma può scrivere anche i deliri che vuole. I deliri non riguardano il caso Mills, l'oggetto delle cose citate da Di Pietro, ma appunto queste frasi che ho pronunciato. Tra l'altro c'è anche una piccola contraddizione in quello che scrive Di Pietro. A un certo punto, al secondo capoverso, il lodo Alfano è incostituzionale, perché lo decide Di Pietro, naturalmente, se il lodo Alfano è incostituzionale. La frase prosegue: poi il 6 ottobre del 2009 la Corte Costituzionale deve pronunciarsi sulla costituzionalità della legge. Ma insomma, c'è una contraddizione evidente. Prego, Walter, che vuole aggiungere? No, niente, io sono rimasto abbastanza scandalizzato, perché trovo che un capo di un partito non abbia il diritto, e soprattutto, non lo so, non mi sembra un modo... No, ma guardi, uno può fare tutte le critiche che vuole al lodo Alfano, al modo in cui Berlusconi governa, ai processi di Berlusconi, ma la democrazia è a rischio, ma insomma non è la prima volta, è per questo che non ho nemmeno citato. Prendere una pagina di un giornale inglese. Ma quella è una mossa, come dire, propagandistica, una mossa di immagine, ci sta, insomma, può anche starci. Non è quello che mi scandalizza, il fatto che prenda una pagina sull'Herald Tribune è una cosa fatta apposta perché c'è il G8 in Italia, con i leader in Italia, sì, insomma, alla faccia dell'appello di Napolitano, però questo sì, non è che bisogna seguirlo l'appello di Napolitano, per carità. Walter, la ringrazio. Lorenzo da Roma, buonasera Lorenzo. Sì, buonasera. Volevo fare due parole sulle affermazioni del professor Vatti riguardo a sul regime in Italia, esiste sì. Qui in Italia, perché francamente mi sono meravigliato, dico mamma mia, a Roma, vivo a Roma, 8 mesi dell'anno siamo sommersi da manifestazioni e non succede quello che succede quando accade il G8. Ci stanno i pensionati, ci stanno i metalmeccanici, vengono tutti a Roma, è giusto, è la capitale, è la sede del potere politico, ma non succede quello che succede durante il G8. Sarà che cambia l'età media, non lo so, sarà quello, però voglio dire, in Italia forse ce n'è anche troppo di permesso di manifestazione. Vogliamo andare a vedere il contrasto che c'è tra il diritto degli utenti a stare su un'autostrada e i manifestanti che la bloccano, oppure il diritto degli utenti a prendere il treno e non può partire perché hanno messo tutte le persone sui binari, e la polizia, le forze dell'ordine che sono in crisi, rispettando le leggi, stanno lì che fermi, guardano e non fa niente. Quindi voglio dire, di democrazia secondo me ce n'è moltissima, e le forze dell'ordine, essendo gli amici di questo professore, possono aver commesso qualche errore, magari ci starà pure che su 8 due arresti sono sbagliati, ma voglio dire, le forze dell'ordine quando sbagliano pagano, oggi proprio. Ma insomma, adesso magari pagano con qualche difficoltà in alcuni casi, ma non è quello il punto. Lei ha centrato il discorso quando ha detto che certamente l'Italia non è un paese a rischio di democrazia, come dice qualcuno. TG5, titoli. Sì alle regole anticrisi, insieme per una ripresa globale. Obama sul clima, consenso storico. Grazie a Berlusconi e all'Italia per la straordinaria accoglienza. Il Premier, da Cina e India, atteggiamento positivo. E a chi gli chiedeva se si aspettasse un'accoglienza così calorosa dagli altri leader, Berlusconi ha replicato: ha fallito chi voleva rovinare il paese. Le mogli dei grandi tra le rovine del sisma, Michelle Obama commossa, arrivata a Coppito anche Carla Bruni Sarkozy, tra le macerie George Clooney, presto girerò un film. La morte di Sandri, in aula il PM con la pistola mima lo sparo che uccise il giovane tifoso, chiesti 14 anni per l'agente spaccarotella. Non merita attenuanti, ergastolo in appello a Romeno Mailat per l'omicidio di Giovanna Reggiani a Roma il 30 ottobre 2007, 29 anni era stata la pena in primo grado. Gli italiani abusano dei farmaci, allarme dell'Istituto Superiore di Sanità, si ingoiano pillole come se si bevesse un caffè e la spesa arriva a 25 miliardi di euro. Bene, TG1 come ieri con un titolo solo praticamente. Costruiamo il futuro, lo faranno gli eventi. Il secondo giorno di lavori al G8 finisce così con un importante accordo sul clima, annunciato da Obama in una conferenza stampa con il premier Berlusconi, il primo ministro britannico Brown ed il premier australiano Rudd. Il presidente americano propone anche un vertice mondiale sul disarmo. Berlusconi fa il punto del vertice, dice grande volontà di tutti per risolvere la crisi. Parla anche di Iran il premier, no a sanzioni ma forte pressing sul nucleare. Bene, da Blob il titolo di questa sera, Barackopoli. Sono le immagini della manifestazione di Roma. Bye bye. Buongiorno, Mimosa. Va bene. Non sentiamo nulla. Quando Niente, c'è un errore per... Andiamo alla 7, abbiamo microfono. I titoli? Non ce li abbiamo. Ci sono i titoli della 7 o no? Mandiamoli, dai. Non li mandiamo, va bene. Sul clima importanti passi avanti, un consenso storico, dice Barack Obama, nonostante la bocciatura da parte della Cina dell'accordo raggiunto al G8. Intesa al G14 per chiudere il negoziato Doha sul commercio globale entro il 2010. Stasera all'Aquila la cena con Napolitano. First Lady commosse durante la visita al centro storico dell'Aquila. Michelle Obama si informa sui bambini vittime del sisma. Tra le rovine anche gli attori George Clooney e Bill Murray con Veltroni. Clooney promette: girerò un film all'Aquila. Via libera al rilancio del nucleare civile in Italia, l'ha dato il Senato approvando il disegno di legge sullo sviluppo. L'opposizione è contraria, non ha partecipato al voto. Entro 6 mesi il governo dovrà indicare i siti delle nuove centrali. Processo per la morte di Gabriele Sandri ad Arezzo. L'accusa chiede 14 anni di carcere per l'agente che sparò ad altezza Duomo, Luigi Spaccarotella. Il PM in aula prende una pistola e mima il gesto del poliziotto. La famiglia del tifoso laziale delusa per la richiesta. Va bene, andiamo a Lodi. Andrea, buonasera. Ancora baraccone su Blob. Sì. La sento pochissimo. Anch'io, molto male. Giulio da Bari, allora. Oh, buonasera. Dica. Cruciani, sono un estimatore della sua trasmissione. Pronto? Vada pure, Giulio. Sì. No, volevo parlare del nuovo stile dei politici berlusconiani. Vi ricordate i tempi prima che Berlusconi scendesse in campo la prima volta? Il linguaggio dei politici, Moro, Rumor e altri... Bisognava veramente tendere l'orecchio per capire il 30-40% del senso che volevano dire. Sembrava che parlassero per tutti, fuorché per noi cittadini. E penso che lo facessero apposta per non farci capire nulla e per tenerci lontano dalla politica in modo da fare i loro comodi. Insomma, era un linguaggio totalmente oscuro. Allora... Arriva Berlusconi e finalmente si capisce tutto dalla alla Z, parla come uno di noi. E poi hanno dovuto, i vari Andreotti, hanno dovuto adeguarsi e finalmente parlano come si deve, in maniera intelligibile anche loro. Quindi prima rivoluzione da parte di Berlusconi, seconda rivoluzione questo stile. Mi sta benissimo l'intervista alla sessualità di Brunetta e che si parli anche della sessualità di Berlusconi. Preferisco mille volte questi comportamenti di Berlusconi e colleghi rispetto ai comportamenti ipocriti, paludati, bacchettoni dei politici del passato, ma mille volte, non una, ma mille volte. Ho capito. Il guaio è il guaio di queste presunte radici cristiane. Noi non abbiamo radici cristiane, forse i primi. Vabbè, adesso non ci addentriamo in discorsi che riguardano le radici cristiane. Lei ha parlato di una cosa molto concreta. Preferisce mille volte i politici che vanno in televisione a farsi intervistare sul sesso e su come fanno all'amore con le loro compagne o le loro amanti, adesso non so bene cosa, piuttosto che i politici della Prima Repubblica. Ancora Baraccopoli su Blob, sentite. È un gambo come tutti gli altri questi, perché Berlusconi qua non è? Siamo tutti italiani o no? Basta. Questo G8 che vi porta? Mi interessa lo G8, a me mi interessa la casa, ho perso due case io, basta. È una vergogna. Venite a pregare per il capo di Stato e di governo del G8 che si incontrano in questi giorni all'Aquila. Orlando da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Mi sono collegato giusto in tempo per sentire Vattimo. Mi viene una considerazione: se questi sono gli intellettuali, mi spiego la fuga dei cervelli, insomma, che il Signore ci liberi dagli intellettuali. Il signor Gianni Vattimo, no? Con tutte le... che è convinto di vivere in un regime, tutte le scemenze che può dire alla radio, in televisione, sui giornali, sono la prova provata che di democrazia ce n'è fin troppa. Il fatto che lui giustifica le persone che sono state arrestate, hanno fatto il manifesto, lui, l'altro fenomeno lì di Dario Fo, e queste persone non solo non le conoscono, ma non le hanno neanche mai viste. Io l'ho combattuto per anni e le posso dare per certo che sono delle bestie in assoluto. Con ma tutto rispetto a chi si per riferisce, mi scusi? Mi riferisco ai manifestanti vari, anti G8, no global, black bloc, centri sociali. E sì, quelli, che fanno violenze, quelli che fanno violenze. È chiaro, quelli che fanno violenze, ma guardi che un giovanotto di buona famiglia, le assicuro che in un centro sociale non ci va. Però lei confonde due cose, Orlando. Quelli che commettono violenze, con quelli che vanno ai centri sociali sono cose che non c'entrano assolutamente nulla. Mi scusi. Sono strettamente legate. No, ma perché così lei condanna quelli che vanno nei centri sociali magari semplicemente per parlare, per discutere. Si può manifestare anche in maniera, come dire, vigorosa, anche con slogan forti, liberamente, purché non si tocchino i cassonetti, non si imbrattino i muri, non si portino i sassi, non ci si copra il viso, purché non si usi la violenza, purché non si dipingano, non si sfascino le vetrine, eccetera. Questo è fondamentale. Ci sono persone che non lo capiscono perché evidentemente sanno solo e da anni rovesciare i cassonetti, perché secondo loro questa è la libertà di dissenso. La ringrazio. Roberto da Roma, poi Lorenzo da Padova, da Lecco, anche dalla provincia di Lecco, un altro ascoltatore. Roberto, buonasera. Buonasera, volevo soltanto... Anche Carlo da Palermo, c'è da un po' di tempo. Roberto, dica. Io sono molto veloce, volevo dire soltanto che insomma io sono di sinistra e sono dalla parte del procuratore Caselli, perché quello che anche ha detto lei per tutta, cioè per la, durante la trasmissione, cioè la protesta è una cosa, la violazione delle leggi è un'altra. Mi sembra che la protesta del Yes We Camp ha avuto più effetto quello che i disordini creati da queste persone che usano dei metodi inurbani. Ho chiuso. La ringrazio, Roberto, molto significativo. Lei ha detto sono una persona tendenzialmente di sinistra. E come si fa? Sempre? Ci sono delle persone che si dichiarano di sinistra e che non condannano a sufficienza questi episodi, e addirittura alcuni intellettuali che fanno appelli parlando di libertà di dissenso che va difesa, che la coscienza civile si deve risvegliare. Cosa c'entra questo? Poi magari alcuni arresti non saranno stati corretti, non lo so, ma è anche difficile spesso, no? Identificare queste persone che vanno in giro con i caschi, con i passamontagna. Va bene, Lorenzo da Padova, buonasera. Sì, buonasera dottor Gruciani, complimenti a lei e alla trasmissione. Io mi vorrei inserire in questo discorso che è appunto sul regime libertà di informazione, G8 e anche sui TG e quanto abbiamo sentito poc'anzi dei titoli. Niente, quello che volevo dire è che a mio avviso non si assiste sicuramente a una censura grave dell'informazione, per cui è scorretto parlare di regime, di mancanza di informazione e via dicendo. Si assiste però, secondo me, a delle sottili tratti che subentrano nell'informazione. E a questo proposito volevo riferire quanto visto ieri sul TG1 della sera, in cui, parlando di protesta, a un certo punto campeggiava sullo schermo e poi per tutta la durata del servizio la scritta "le proteste che danno fastidio ai cittadini". Beh, a me personalmente ha dato fastidio questa scritta, perché mi è sembrato un modo di fare opinione, di manovrare l'opinione piuttosto che di dare notizie. Lorenzo, può darsi che non sia roba del TG1 o che comunque non sia usanza del TG1 calcare la mano e insistere con questi toni. Non mi sembra francamente una cosa molto grave, e anche perché si parte da un fatto vero, cioè alcune di queste proteste quando sfociano in violenze nei confronti per esempio di negozi, in alcuni casi anche di un bambino in una carrozzina, infastidiscono i cittadini, non c'è dubbio, o no? Senz'altro, ma infastidisce anche poi vedere il servizio sugli attivisti Greenpeace, dove anziché spiegare le ragioni dei motivi di questa protesta viene semplicemente messo l'audio con buffoni gridato da degli operai che immagino passavano di lì in quel momento. Anche questo mi sembra un modo di fare opinione, di manovrare l'opinione pubblica, che non ha a che vedere con la libertà di informazione, con il dare i fatti. Ecco, volevo solamente riferire a questi due. Va bene, Lorenzo, la ringrazio. si può imparare a far l'amore? Sì, se io penso com'ero io, mamma mia. E com'eri? Imbranato, come tutti penso. Quanto tempo ci vuole per amare bene davvero? Amare in senso fisico? Forse una vita. Forse una vita, perché si impara sempre di più. Ho una domanda molto, molto intima, quindi se vuoi non mi rispondere, naturalmente. Ti è mai capitato di scoppiare a piangere mentre facevi l'amore? No, mai. E poi si potrebbe discutere anche sulla domanda, Ti è mai successo di scoppiare a piangere quando facevi l'amore? Ma che domanda è? Vai, ma questo è un dettaglio. Rispetto al tono straordinario della conduttrice, secondo me molto coinvolgente, e poi a tutte le discussioni che si possono fare sul politico, un politico di primo rango, che è un ministro molto famoso che si sottopone a domande di questo tipo. Abemus Berlusconi, e Abemus Berlusconi per quello che riguarda la questione dei giornali e dei complimenti che gli sono stati fatti da Obama, le due realtà. Sentiamo. Ci sono due tipi di realtà, quella vera della gente comune, e c'è la realtà che qualche volta i giornali descrivono, che non è la realtà ma è pura fantasia. Era pura fantasia e la dimostrazione credo che sia lampante. E poi a una domanda, rispondendo a un giornalista di Repubblica, sentite. Non avete raggiunto il risultato che volevate, auguri. Che era quello, secondo Berlusconi, naturalmente, di distruggere l'immagine dell'Italia, del Presidente del Consiglio, durante il G8. Silvio, provincia di Lecco, buonasera. Buonasera. Eccoci. Lei mi perdona. No, non comincio la telefonata facendo l'elogio della sua trasmissione. No, ma non è richiesto, Silvio. Ecco, dunque, sono contento che stasera lei nei confronti del caso Salvini si sia dimostrato un poco più severo dell'altro ieri sera, mi pare, no? Di quando lo ha intervistato. Perché allora lei ha sentito ieri sera? Prego? Ha sentito anche ieri sera la trasmissione, Silvio? Mi pare di sì. Ma, le pare di sì? No, così questo, tanto per avere idea, perché noi è tre giorni che parliamo di Salvini. Sì, vabbè, ma questo è l'assunto. Guardi, se lei si riporta l'altro ieri sera, io ricordo benissimo la telefonata di una signora, mi pare che di Bergamo, sì. La quale diceva che è costitutivo della Lega, insomma, questo atteggiamento, e lei ha fatto una distinzione che secondo me non c'entrava niente, cioè dicendo questo è estremismo, ci sono estremisti in tutti i partiti, quando tutti sanno che nell'ideologia della Lega c'è questo nucleo di razzismo dichiarato da loro stessi. Ma comunque il senso della mia telefonata non era tanto su questo fatto specifico, era per dire che a me sembra, mi perdonerà, ma a me sembra che lei sia un minimizzatore, un po' pavido, quando ha davanti qualche rappresentante del potere, oggi il potere è personificato dal governo della destra. Il insomma, potere è Salvini, secondo lascia... lei. Prego? Il potere è Salvini, secondo lei. No, beh, Salvini fa parte di un partito che è al governo. Guardi, io ricordo chiaramente un paio di episodi, se posso dirlo. Prego, insomma, come no. Una volta lei ha riportato, non so quale trasmissione, una dichiarazione dell'onorevole Russa, al quale era stato chiesto se fosse civile la Libia, il grado di civiltà della Libia. Sì. E la Russa rispose che era più civile della Spagna. Vabbè, non era proprio così, comunque il senso era questo. Comunque in sostanza, insomma, e poi aggravò ancora la cosa dicendo che comunque lui in Libia era stato mezza giornata. Ma io dico, ma c'è da restare allibiti? Un ministro del nostro governo, la difesa per giunta, sì, non sa quello che sa un ragazzino di scuola media. Ma Silvio, guardi che noi presentammo quelle cose dicendo esplicitamente che le parole di La Russa non stavano né in cielo né in terra, per cui di cosa stiamo parlando? Molto male che lei disse, ma sentite qua cosa dice, cosa salta fuori a dire La Russa. Un'altra volta posso dire un altro episodio? No, ma Silvio, le ripeto, nel caso di La Russa, sì, senza crocifiggere La Russa con i chiodi al muro e senza flagellarlo, perché sì, la flagellazione non è riservata a nessuno in questa trasmissione, forse la flagellazione però forse però una piccola chiosa meritava quella risposta. Ma guardi che adesso io non ricordo bene quale fu la frase esatta che ho utilizzato, però abbiamo, ecco, uso un'espressione che non utilizzo mai, abbiamo condannato pesantemente quelle frasi della Russa. Ci abbiamo ironizzato sopra, abbiamo detto come fa un ministro a paragonare la Spagna. A me non sembra, comunque lasciamo stare. Va bene, altro episodio? Io mi ricordo, che lei fu cattivo giornalisticamente parlando, col sacrestano di Vigevano che aveva, si era fatto fotografare con la svastica. Povero mentecatto andava lasciato all'oblio perpetuo, insomma. Lei ha fatto un interrogatorio serrato. Ecco, mi piacerebbe che qualche volta lei usasse questa cattiveria giornalistica, per carità, contro i potenti, insomma. Guardi, i potenti purtroppo non si sottopongono a nessun tipo di intervista. Questo è il punto fondamentale. Quando c'è da essere cattivi, io sono cattivo, qualche volta sì, qualche volta no, dipende anche dall'umore di giornata, Silvio. Poi non mi sembra di essere stato particolarmente cattivo nemmeno con il sacrestano, devo dire la verità. L'abbiamo un po' incalzato perché non si rendeva conto della stupidaggine che aveva commesso, punto. Comunque la cattiveria va sempre bene, per carità, la cattiveria va sempre bene. Sì, beh, certo, quando se la meritano e come, tanto più sono potenti. Assolutamente, sì. Tanto meglio. Io mi ricordo una volta che l'onorevole Gasparri disse: alle domande cretine non rispondo a una giornalista alle sole 24 ore. Sì, sì. E la domanda, sa qual era? Ci dica qualcosa sulla questione che non si può tenere il referendum il 7 perché sennò il governo cade. L'aveva detto poco prima il capo del governo. E allora in quel caso forse era il caso di ricordare che il cretino era un altro, non la giornalista, insomma. Ecco, comunque. No, ma lei fa bene a ricordare al sottoscritto che bisogna essere cattivi con tutti quando è il caso, naturalmente, no? Perché poi uno è cattivo sempre secondo la propria sensibilità e non a comando. La ringrazio molto. Vuole aggiungere qualcosa? No, volevo dire semplicemente che ricordando. Con Salvini siamo stati troppo teneri? Il vostro, sì. Com'è? Con Salvini adesso non più di piacere. Volevo semplicemente dire che il vostro slogan, la passione si sente, ecco, qualche volta si sente un po' pochino, bisognerebbe un po' manifestarla meglio. La ringrazio. Grazie a lei. Anche qui dipende da chi ascolta e dalle orecchie con cui si sente la radio, che sono le più diverse, le più disparate. Davide da Padova, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Buonasera. Perdonerà l'emozione, è la prima volta che... No, Davide, non si emozioni, per carità, non è il caso. Vabbè, è la mia trasmissione preferita. Lo so, non è il caso di emozionarsi, dica la sua, lei sa che i salamelecchi non mi piacciono. Sì, no, è vero. Intervengo per il discorso di Zanonato di ieri sera. Io in verità volevo intervenire subito dopo la sua introduzione su Zanonato. Premetto che sono un elettore, comunque un simpatizzante del centrodestra, al di là delle classificazioni che sono sempre spiacevoli e anche fuori luogo in tanti casi, no? Però volevo per questa volta dire la mia riguardo il fatto che quando Zanonato fu rieletto, io come elettore di centrodestra, francamente, non mi sono sentito particolarmente indignato o impaurito o comunque ad avere dei sentimenti negativi nei confronti del mio sindaco. Perché? Perché nella precedente legislatura il sindaco Zanonato si è sempre comportato come una persona di gran buon senso, che ha sempre fatto delle politiche rivolte ai cittadini, che ricordiamo ad esempio il muro, no, di Vianelli, sì. Celeberrimo muro di Vianelli. Ecco, quel tipo di politiche possono farle prevalentemente persone del centro-sinistra dotate di buon senso. Ma perché? Perché chiaramente immaginiamoci che cosa sarebbe successo se un sindaco di centrodestra avesse minimamente immaginato di costruire un muro in Vianelli nel covo dei clandestini, degli immigrati, no? E in questo senso io, Zanonato, fino a ieri sera, fino alla sua introduzione, ho sempre avuto un'ammirazione. D'altra parte non è un caso che è stato uno dei pochi sindaci a resistere in un territorio molto complicato e a essere rieletto. Assolutamente, ma in effetti io sono assolutamente convinto del fatto che Zanonato abbia interpretato molto bene quello che è il sentire comune del cittadino, al di là del io voto centrodestra, io voto centrosinistra. In effetti qui il giorno dopo, nonostante io sia un grandissimo appassionato di politica e sia un forte simpatizzante del centrodestra, non mi sono particolarmente indignato, e questo dovrebbe essere veramente il modo di fare politica, moderno. Vabbè, ieri sera poi ieri sera poi ha sbroccato, diciamo la verità. Secondo lei ha un po' sbroccato? Ma sì, era una giornata molto calda ieri a Padova, per cui probabilmente era mai in macchina però il sindaco ieri, non so nemmeno se era a Padova. Allora forse. Ecco, tutto qua, io ci tenevo solo a sottolineare che il modo giusto di far politica è sempre quello di parlare di cose veramente concrete, al di là della fazione, che poi è una cosa bruttissima. Va bene, Davide, la ringrazio. Andiamo a Antonello, anzi no, Giuseppe da Roma. Pronto? Sì, buonasera, dica Giuseppe. Sì, buonasera. Senta, io volevo solo volevo parlare degli arresti che ci sono stati adesso per le sì. violenze, quei ragazzi arrestati. E a me sembra una cosa un po' strana, unica nel suo genere, perché cosa? Nelle motivazioni si è detto che sono stati arrestati perché avrebbero potuto ripetere gli atti. No, a parte che sono stati arrestati per degli episodi concreti, non solo sì, così per gioco. No, non sono stati dati gli arresti domiciliari o una ad alcuni gli arresti domiciliari, ad altri no, ma non è che sono stati arrestati perché sono semplicemente così presi a casa a caso perché poi c'era un'altra manifestazione in programma e dunque potevano reiterare il reato. Qualche cosa sarà stato commesso, secondo naturalmente la polizia e poi secondo i magistrati, no? Le dico, sono d'accordissimo per una linea dura per i violenti e tutto quanto. È che questa cosa mi sembra abbastanza unica nel suo genere. Ogni ma quale domenica unica nel suo genere? Vediamo gli ultra degli stati fare di tutto. E beh, che c'entra, scusi? Per me gli ultra degli stati che fanno di tutto dovrebbero essere anche loro presi quando è il caso. Il problema è che non vengono mai presi. Ma come non vengono presi? Assolutamente non è così. Si può imparare a fare l'amore? Sì, se io penso com'ero io, mamma mia. E com'eri? Imbranato, come tutti penso. Quanto tempo ci vuole per amare bene davvero? Amare in senso fisico? Forse una vita. Forse una vita, perché si impara sempre di più. Ho una domanda molto, molto intima, quindi se vuoi non mi rispondere naturalmente. Ti è mai capitato di scoppiare a piangere mentre facevi l'amore? No, mai. E perché mai poi uno dovrebbe scoppiare a piangere? Lo dico io, ma in realtà c'è anche un sms adesso di un ascoltatore che mi dice: potrebbe essere utile Nicoletti. Beh sì, Nicoletti è sempre utile per un sacco di cose, soprattutto nello spiegare perché uno dovrebbe scoppiare a piangere quando si fa l'amore. Magari anche voi scoppiate a piangere quando fa l'amore, mi sto sbagliando, però la domanda mi ha sorpreso, oltre al tu rivolto a Brunetta. Però non insistiamo su questo, sennò l'ascoltatore dice e sostiene che stiamo diventando una trasmissione di gossip. In questo caso il gossip non c'entra nulla, perché non c'è nessun retroscena. È un politico che svela il modo in cui fa l'amore in una trasmissione televisiva. Torniamo agli arresti per il G8, gli arresti dei giorni scorsi. Stavamo parlando con Giuseppe da Roma. Sì, allora, dopo l'autogossip di Brunetta. Autogossipato, così gli altri evitano di fargli gossip. Può darsi che l'intervista abbia questo scopo per Brunetta, quello di evitare gossip su di lui. Ma in realtà Brunetta non ha bisogno di gossip, sembra, cioè non ci sono gossip dietro Brunetta, che si è presentato. Vabbè, lasciamo perdere. Infatti, no, niente, ecco, io mi sono stupito, per quanto riguarda gli arresti, del fatto che è stata applicata una norma che esiste nella nostra giurisprudenza, però è stata applicata solo in questa occasione o in rarissime occasioni. Mi scusi Giuseppe, io voglia difendere i violenti. Ma qual è la norma che è stata applicata in rarissime occasioni? Mi scusi. Il fatto che sono stati mantenuti, diciamo, non è stato accordato che tornassero a casa, sono stati mantenuti in carcere per evitare che andassero poi alle manifestazioni. Ma no, ma non è per questo, mi scusi, formalmente se restiamo alla forma non è per questo. Beh, ho capito. Quello che è passato sui telegiornali è questo. Giuseppe, io non so, diciamo, quello che sia passato sui telegiornali, io so solo che il giudice Caselli prima ci ha detto una cosa: il codice prevede la questione della reiterazione del reato. Esatto, per evitare la reiterazione. Ho capito, ma se uno se ci sono delle prove, o comunque ci sono degli indizi o delle prove che diversi magistrati reputano concordanti sul fatto che queste persone se lasciate libere potevano andare a commettere gli stessi reati in un altro posto, queste persone restano agli arresti domiciliari, in carcere. Non vedo dov'è il problema. Sì, cioè non vedo dov'è la questione, sì, dell'arresto preventivo, non esiste in questo caso. E poi mi lasci dire un'altra cosa, Giuseppe, mi scusi, poi le ridò subito la parola. Prego. No, perché per quello che riguarda per esempio il G8 di Genova, ci fu una grande discussione sull'operazione di prevenzione della polizia. Si disse, una delle accuse che sono state fatte alla polizia, non era stata fatta. Esatto, non è stata fatta la prevenzione, i black bloc sono stati fatti entrare in Italia anche per provocare incidenti. Adesso quando si fa un'operazione, come dire, preventiva, anche preventiva, basata però su reati effettivi, eccetera, non va bene, questo bisogna mettersi d'accordo o no? Questa volta abbiamo un po' esagerato nell'altro senso, non so se lei è a Milano o a Roma. A Milano in questo momento. Milano. Guardi, se lei prende la 24 da Roma, dal Verano fino all'Aquila, sotto ogni cavalcavia e sopra ogni ponte troverà o una macchina della polizia o una pattuglia dell'esercito con i fucili d'assalto. E qual è il problema? Insomma, in Ecuador questa cosa penso che sia normale, Ecuador, in Italia è una cosa che mi fa un po' paura. Anche perché che cosa le fa paura? La presenza della polizia le fa paura? La presenza in maniera massiccia della polizia per strada, ma anche dell'esercito. Ma ci sono 8 capi di Stato che vanno dall'Aquila a Roma quotidianamente, c'è una sicurezza da mantenere, cosa crede, che è uno scherzo? Guardi, dopo che ho passato un'ora sulla 24, penso sì, la sicurezza c'è sicuramente, tutto, però sicuramente questi non prendono la 24 per venire tra L'Aquila e Roma. Beh, ci sono le delegazioni, qualcosa del genere, certo, vi assicuro. Beh, oggi Gheddafi si è addirittura fermato sulla 24 e ha fatto un quarto d'ora di camminata, per cui Gheddafi l'ha presa sicuramente la 24. Questo mi mancava. Io lo dico io. Ho letto prima un'agenzia, a un certo punto Gheddafi era in macchina verso L'Aquila, credo. Immagino verso L'Aquila, si è fermata la macchina, è sceso Gheddafi e ha fatto una camminata di un quarto d'ora sulla A24. Bah, vai a capire perché. La ringrazio, Giuseppe, buona serata. I titoli del TG2. Berlusconi traccia un primo bilancio del G8 dell'Aquila, un vertice che si è svolto, sottolinea il Premier, in un clima di cordialità e amicizia che ha reso possibile risultati straordinari, sono le parole di Obama, sulla difesa dell'ambiente. Ed è proprio in questo clima che è maturata la proposta del presidente statunitense per un prossimo vertice sul disarmo. Soddisfazione del nostro presidente del Consiglio per il riconoscimento di tutti che la soluzione della crisi economica debba salvaguardare soprattutto i più deboli. Quanto alle recenti polemiche di alcuni giornali italiani, Berlusconi taglia corto, ha fallito chi voleva rovinare il paese. Va bene, Riccardo da Bari, buonasera. Buonasera a lei, diciamo il mio intervento verte sul G8, però volevo darle una risposta rispetto a perché uno piange quando fa l'amore. Probabilmente piange perché appunto il partner non è particolarmente simpatico e quindi dice chi me la fa. Ecco, questa è la mia interpretazione. Non è mica detto che bisogna piangere in questo caso. Però non è stato in grado appunto di rifiutare, diciamo, il rapporto. E invece per quanto riguarda il G8, io credo, premetto che sono un elettore di sinistra e non so bene quanto questo possa essere importante, però sta di fatto che in questa occasione, in questo G8, io non mi trovo assolutamente d'accordo con le proteste appunto dei No Global, perché per un verso, come ho sentito già da lei, è evidente ci sono 8 e più capi di Stato e quindi bisogna tutelare costoro. E tra l'altro è stato fatto, diciamo, l'operazione mi è sembrata un'operazione piuttosto preventiva, quindi che impedisse che accadesse poi quello che è accaduto. Sì, poi non si sa ancora, perché domani c'è una manifestazione. Domani c'è la manifestazione dei No Global a mezzogiorno. Le dita e speriamo bene. Appunto, speriamo bene, ecco, speriamo bene, soprattutto per quello che vorremmo non accada mai più in questo paese. Per quanto riguarda, devo dire, l'organizzazione del G8, è evidente che, come non solo il Presidente degli Stati Uniti, ma credo tutti i capi di Stato, abbiamo dimostrato di essere un paese efficiente, quindi bisogna dare atto a Berlusconi e ai suoi Sherpa che il risultato è stato ottenuto. Io sono sono, non direi indignato, ma dato che sono un uomo di passione, che un uomo di 55 anni che ha militato nella sinistra, che fa politica da sempre, quello che non comprendo è ancora questa, diciamo, questo voler attaccare il Presidente del Consiglio su un terreno che, devo dire, non credo interessi agli italiani. Bisognerebbe semmai attaccarlo, o se meglio ancora protestare per quanto riguarda tutti i disagi che quotidianamente gli italiani sono costretti a sopportare. Se penso alla sanità che appunto non funziona, se penso ai poveri pendolari, tra l'altro pendolari dello Stato, insegnanti che sono costretti a viaggiare su treni sporchi e ad andare a lavorare. E questo fa un po' da contraltare. La ringrazio, Riccardo, siamo quasi in conclusione, magari all'efficienza dell'organizzazione che dimostriamo durante il G8, almeno finora. La ringrazio. Aniello, provincia di Salerno. Buonasera, dottor Cruciani. Sia velocissimo, Aniello, un flash, devo chiudere. Pronto? Sì, un flash, Aniello, veloce. Sì, volevo parlare per quanto riguarda Di Pietro. Io mi trovo d'accordissimo per quanto riguarda Di Pietro in merito al rischio democrazia, perché rischio democrazia non significa per forza che ci sia una dittatura. No, infatti Di Pietro parla in questo manifesto sull'Herald Tribune, in questa pagina comprata, faccio appello alla comunità internazionale affinché diffonda questa informazione, eserciti pressioni per ripristinare i principi di libertà democratica e di indipendenza della Corte Costituzionale e evitare che l'Italia si trasformi da democrazia a dittatura di fatto. La parola dittatura è evocata. La ringrazio, Matteo da Londra, lo ringraziamo per averci chiamato da Londra, però siamo quasi in conclusione, dunque lo rimandiamo a domani, oppure lei deve essere particolarmente efficace in 20 secondi. Pronto? Sì, Matteo, dica, non è efficace. Sì, buonasera, guarda, io ho visto la Tribune oggi e lei può immaginare qui com'è la situazione, perché ogni giorno il Financial Times, il Times fa articoli sull'Italia, Berlusconi. Vabbè, ce lo racconta meglio Matteo, me lo racconta meglio domani, me lo racconta meglio domani, perché questa sera davvero non abbiamo più tempo, dobbiamo dare la linea alle altre trasmissioni, poi al Giornale Radio delle 21. Ci sentiamo domani 18:30 con la Zanzara.